Parigi, 24 ore. No, un'eternità più tardi. È notte e salgo di nuovo nella cucina di Madame Clapin. Ma forse non sono qui di nuovo. Forse sono ancora sempre qui. Forse questo giorno non è stato che un brutto sogno. Forse mi ridesterò. Ma si sono chiuse su di me le acque della Senna. L'acqua era così vicina. Le luci di Parigi danzano nelle onde, danzano e chiamano, e io mi sono sporta sul freddo parapetto di pietra del ponte. Forse dovevo veramente morire e lasciarmi trascinare dalla corrente attraverso tutta Parigi, trascinare, scorrere via e non sentire più nulla. Vorrei tanto essere morta. Ma sono qui, seduta ad una traballante tavola di cucina, e i miei pensieri girano, girano. Io odo ogni parola, ogni volto mi avvicino e la pioggia tamboreggia alle finestre. Ha piovuto tutto il giorno. Già, per la strada verso la casa di Madame Tallien ero tutta bagnata. Avevo indosso il mio bel vestito di seta azzurra, ma quando attraversai il giardino delle Tuilerie e percorsi la via Saint-Honoré mi accorsi che il mio vestito non è più moderno, almeno secondo il gusto di Parigi, perché le signore qui portano degli abiti che sembrano camicie e che sono stretti soltanto da un nastro di seta sotto il seno, e non portano neppure il fichu, sebbene già siamo d'autunno, ma si buttano semplicemente uno scialle trasparente sulle spalle. Le mie maniche strette, che arrivano fino al gomito e che sono guarnite di pizzi, assolutamente non vanno. A quel che pare qui non usano più le maniche, ma si portano soltanto degli spallini con fibbia. Io mi vergognavo assai perché avevo tutta l'aria di un'oca provinciale. Non mi è stato difficile trovare la chaumière nella Allée des Veuves. Madame Clapin mi aveva descritto bene la strada e, sebbene con tutta la mia impazienza mi sia indugiata abbastanza davanti alle vetrine del Palais Royal e della via Saint-Honoré, in mezz'ora ho raggiunto la meta. Vista di fuori, la casa ha, per la verità, un aspetto molto modesto. Non è più grande della nostra villa, è in stile rustico e ha persino un tetto di paglia. Ma dietro alle finestre occhieggia il fulgore delle tende di broccato. Non erano che le prime ore del pomeriggio, ma io volevo preparare a dovere la grande sorpresa che stavo per fare, in attesa in una di quelle sale, quando sarebbe arrivato Napoleone. Siccome lui quasi ogni pomeriggio fa visita a Madame Tallien, era quello il luogo nel quale più facilmente potevo incontrarlo. E una volta aveva scritto a Giuseppe che chiunque può entrare da Madame Tallien perché ella tiene casa aperta. Davanti all'entrata bighellonava molta gente che squadrava con occhio critico tutti coloro che si avvicinavano alla chaumière, ma io non stetti a guardare né a sinistra né a destra e mi diressi defilato verso il portone. Abbassai, sali, scendi, la porta s'aperse, entrai e fui subito bloccata da un domestico. Costui portava una livrea rossa dai bottoni d'argento e rassomigliava in tutto e per tutto ai lacchè delle case nobiliari di prima della rivoluzione. Non sapevo che i dignitari della Repubblica potessero avere dei lacchè in livrea. D'altra parte, lo stesso deputato Tallien è un ex cameriere. L'aristocratico servitore mi squadrò da capo a piedi e domandò in tono altezzoso: «Desiderate, cittadina?» Non mi aspettavo questa domanda e così non seppi che balbettare. Vorrei entrare. «Lo vedo», disse il lacchè. «Avete un invito?» Io scossi il capo. Credevo, ecco, che chiunque potesse entrare. Oh, a voi donnine farebbe comodo questo, ghignò l'uomo e mi squadrò più spudoratamente di prima. Dovete contentarvi della via Saint-Honoré e dei portici del Palais Royal, signore mie. Io diventai di brace. Che cosa credete? Forse cittadino? Esclamai, quasi non riuscivo a parlare per la gran vergogna. Devo entrare, perché ho bisogno di vedere qualcuno che è qui. Ma quello non fece che aprire la porta e mi spinse fuori. Ordine di Madame Tallien, non si fanno passare signore che non siano accompagnate da un cavaliere, a meno che, mi gettò un'occhiata sprezzante, a meno che non siate un'amica personale di Madame. Mi cacciò sgarbatamente in strada e mi chiuse la porta in faccia. Mi trovai fra gli altri curiosi sulla via. La porta si apriva e si richiudeva senza interruzione, ma intorno a me s'erano raccolte alcune ragazze e non mi lasciavano osservare gli ospiti di Madame Tallien. È un ordine nuovo. Soltanto un mese fa potevamo entrare senza difficoltà. mi disse una ragazza dalla faccia piena di belletto e ammiccò. Ma qualche giornale forestiero deve aver scritto che la casa della moglie del deputato Tayen era diventata un bordello. Belò e fece vedere i denti radi dietro le labbra dipinte di lilla. A lei non importerebbe un bel nulla, ma Barrale ha detto che bisogna almeno salvare le apparenze. Osservò un'altra davanti alla quale io mi ritrassi atterrita perché aveva il volto pieno di purulenti foruncoli che apparivano qua e là sotto la cipria, bianca come uno strato di calce. «Tu sei nuova, non è vero?» mi domandò e adocchiò con aria sprezzante il mio abito fuori moda. «Barrà!» balenarono le labbra lilla. «Due anni fa pagava ancora 25 franchi per notte alla Lucilla. Adesso si può concedere una Beauharnais». Proprio allora una vettura di piazza si fermò davanti alla casa. A forza di gomiti mi feci strada fra il crocchio, corsi come una pazza verso la carrozza e urtai forte contro il cappotto di un ufficiale. L'uomo che aveva indosso il cappotto era appena sceso dalla carrozza. Era così terribilmente alto che per distinguere i tratti del suo volto dovetti levare gli occhi, ma il suo tricorno era calcato sulla fronte e non potei vedere che un gran naso sporgente. «Scusate, cittadino», dissi, poiché il gigante, quando gli ero piombata addosso, si era tratto indietro spaventato. «Scusatemi, ma io vorrei essere la vostra dama». «Che cosa vorreste?» domandò sconcertato il gigante. «Sì, vorrei essere per un momento la vostra dama. Le donne non possono entrare in casa di Madame Tayen quando non siano accompagnate da un cavaliere e io devo assolutamente entrare e non ho cavaliere». E l'ufficiale mi squadrò dalla testa ai piedi e sembrò non troppo convinto. Poi, con una risoluzione improvvisa, mi offerse il braccio e disse «Venite, cittadina». Il lacchè dell'anticamera mi riconobbe subito, mi lanciò un'occhiata sdegnosa e poi, con un profondo inchino, liberò il gigante del suo mantello. Io mi accostai a uno degli alti specchi della stanza e mi raccomodai sulla fronte le ciocche dei capelli e vidi che avevo il naso lucido. Ma proprio quando stavo per tirar fuori il piumino della cipria, il gigante disse impaziente «Bene, siete pronta, cittadina?» Mi voltai in fretta verso di lui. Portavo un uniforme di taglio perfetto con delle grosse spalline dorate. Quando levai di nuovo la faccia per guardarlo, notai che la sua bocca stretta sotto il naso vistoso era contratta in atto di disapprovazione. Evidentemente era pentito di aver ceduto e di avermi condotta con sé, e mi venne in mente allora che con ogni probabilità egli mi credeva una di quelle ragazze di strada che bighellonavano di fuori. «Vi prego, scusatemi», sussurrai. «Non avevo altra soluzione». «Quando sarete dentro, comportatevi decorosamente, non fatemi fare una brutta figura», disse in tono severo. Poi fece un piccolo, rigido inchino e mi offerse il braccio. Il domestico aprì una porta a due battenti dipinta di bianco e ci trovammo tosto in una sala vastissima, dove stava raccolto un numero stragrande di persone. Davanti a noi spuntò improvvisamente un secondo lacchè che ci guardò con aria interrogativa. Il mio accompagnatore si voltò verso di me bruscamente. «Il vostro nome?» «Nessuno deve sapere che mi trovo qui», pensai e bisbigliai. «Désiré». «Désiré? E poi?» domandò il mio cavaliere stizzito. Io scossi il capo, disperata. «Prego, non più di così». E il lacchè fu informato dell'arrivo della cittadina Désiré e del cittadino generale Giambattista Bernadotte. «La cittadina Désiré e il cittadino generale Giovanni Battista Bernadotte», gridò il domestico. I più vicini si voltarono. Una donna giovane, dai capelli neri, con un abito di velo giallo, si staccò subito da un crocchio e scivolò alla nostra volta. «Che bella sorpresa, cittadino generale! Che meravigliosa sorpresa!» cinguettò e tese ambe le mani al gigante. Poi, dai suoi grandi occhi scuri, scese uno sguardo indagatore sulla mia persona e per una frazione di secondo si fermò sulle mie scarpe infangate. «Voi siete troppo gentile, Madame Tayen», disse il gigante, e si chinò sulle mani di lei baciandole, no, non le mani, ma il candido avambraccio. «È la mia prima visita, come sempre, quando ad un povero soldato combattente è concesso di venire a Parigi, la mia prima visita è nei domini di Teresa». «Il povero combattente esagera in cortesia, come sempre, e ha già trovato compagnia a Parigi». Di nuovo gli occhi scuri mi sfiorarono. Cercai di mettere insieme una specie di inchino, ma Madame Tallien perdette l'ultimo residuo di interesse per la mia meschina persona e tranquillamente si cacciò tra me e il generale. Venite, Giovan Battista, venite, dovete salutare Barrà. Il direttore è laggiù nel giardino, alle prese con la terribile Germaine de Staël, sapete, la figlia del vecchio Necker, che scrive romanzi a getto continuo. E noi dobbiamo liberarlo. Sarà felicissimo che voi. E allora io non vidi più che il velo di mussola gialla sulle spalle, completamente nude di lei, la schiena del mio gigante. Altri invitati si interposero, io mi trovai tutta sola nel salotto sfavillante di Madame Tallien. Mi cacciai nella nicchia di una finestra e con gli occhi perlustrai tutta la sala, ma da nessuna parte riuscii a trovare Napoleone. Vedevo bensì una gran folla di uniformi, ma nessuno aveva un aspetto così miserevole come quella del mio fidanzato, e più mi indugiavo, più mi nascondevo in quella nicchia di finestra. Non soltanto il mio abito era assurdo, ma anche le mie scarpe mi apparivano ridicole. Qui le signore non portano delle vere scarpe, ma semplicemente delle suole sottili senza tacco, e queste suole erano fissate ai piedi con stretti legacci d'oro e d'argento. E lasciavano le dita scoperte e le unghie erano smaltate di rosa o d'argento. Da una delle sale attigue usciva una musica di violini e i domestici in livrea rossa passavano tra gli invitati tenendo in equilibrio enormi vassoi con bicchieri e ghiottonerie. Io mi cacciai in bocca un panino col salmone, ma non ne provai piacere, tanto ero agitata. In quel momento qualcuno batté le mani e udii la voce cinguettante di Madame Tallien, che vinceva il mormorio di tutte le altre. Tutti nel salotto verde, abbiamo una sorpresa per i nostri amici. Mi introdussi con gli altri in una sala vicina e là ci trovammo tutti assiepati in piedi e non riuscii a vedere che cosa succedesse. Vidi soltanto che le pareti erano tappezzate di stoffa di seta rigata di bianco e di verde. Vennero distribuiti intorno dei calici di champagne e io pure ebbi il mio. Poi ci stringemmo ancora di più per lasciar passare la padrona di casa. Teresa passò davanti a me, vicinissima, e potei vedere che sotto il velo giallo non portava proprio nulla. Le punte rosso scuro dei suoi seni si distinguevano chiaramente. Era davvero sconveniente. S'era appesa al braccio di un signore la cui marsina violetta era tutta ricamata d'oro e che si premeva contro gli occhi un occhialino con un fare quanto mai arrogante. Qualcuno bisbigliò: il buon Barrà ingrassa. E io appresi che davanti a me passava niente meno che uno dei cinque potenti di Francia. Fate circolo intorno al sofà, gridò Teresa, e noi ci disponemmo in cerchi ubbidienti. E fu allora che io lo vidi. Era seduto sul piccolo sofà con una signora in abito bianco. Aveva i suoi logori stivali, ma i calzoni erano nuovi, impeccabilmente stirati. Ed era nuova anche la giubba. Non portava distintivi di grado né decorazioni di sorta. Il suo volto smagrito non era più abbronzato, ma bianco, di un pallore quasi da ammalato. Sedeva impacciato e rigido e fissava Teresa Tallien, come aspettasse da lei la salvezza dell'anima sua. La signora, che gli sedeva vicinissima al fianco, si era appoggiata all'indietro sul sofà. Il suo piccolo capo, con i riccioli minuti pettinati all'insù, era buttato all'indietro. Teneva gli occhi socchiusi, le palpebre erano coperte di biacca argentata, un piccolo nastro di velluto rosso scuro faceva spiccare il provocante candore del collo e così seppi anch'io chi era quella donna. Era la vedova di Beauharnais, Giuseppina. Le sue labbra serrate componevano un ironico sorriso e tutti noi ne seguimmo lo sguardo dei suoi occhi socchiusi. Sorrideva a Barrà. Avete tutti champagne? Questa era la voce della Tallien. L'esile figura in bianco allungò una mano, qualcuno le porse due bicchieri e ella ne offrì uno a Napoleone. Generale, il vostro bicchiere. Adesso sorrideva a lui. Era un sorriso molto confidenziale, con una punta di compassione. Cittadini e cittadine, signori e signore, ho il grande onore di dare alla cerchia dei nostri amici una notizia che riguarda la nostra amata Giuseppina. Quando Teresa alzava la voce, questa suonava stridula e ingrata. Come si godeva questa scena! Era ritta in piedi presso il sofà e teneva alto in mano il suo bicchiere. Napoleone si era levato anche lui e la guardava, mortalmente smarrito. Giuseppina invece aveva di nuovo buttato all'indietro l'infantile testolina ricciuta con le sue palpebre argentate. La nostra amata Giuseppina si è risolta a rientrare nella benedizione dello stato coniugale. Un ridacchiare sommesso sorse tutt'intorno. Giuseppina giocherellava distratta con il nastro di velluto rosso che le circondava il collo. Sì, nella benedizione dello stato coniugale e... Teresa fece qui una pausa studiata e guardò Barrà. Barrà annuì e si è fidanzata col cittadino generale Napoleon Bonaparte. No! Udì questo grido come tutti gli altri lo udirono. Stridulo, penetrante, tagliò lo spazio, sostò lacerato nell'aria, seguito da un silenzio glaciale. Soltanto nell'attimo seguente capii di essere stata io a gridare così. Ma io ero già ritta davanti al sofà. Vidi Teresa Taillé entrarsi in disparte spaventata. Aspirai un profumo dolciastro. Sentii anche che l'altra, la donna vestita di bianco sul sofà, mi fissava. Ma io non vedevo che Napoleone. I suoi occhi erano vitrei, trasparenti e privi di espressione. Sulla sua tempia destra palpitava una vena. Stemmo per un'eternità così, l'uno di fronte all'altra, lui ed io. Ma forse non fu che una frazione di secondo. Soltanto in seguito io guardai la donna. Palpebre dai riflessi d'argento, minutissime grinze agli angoli degli occhi, labbra dipinte di rosso carico, come la odiavo. Con una mossa violenta le lanciai ai piedi il mio bicchiere di champagne. Lo champagne le schizzò sull'abito e la squittì isterica. Correvo lungo una via bagnata dalla pioggia. Correvo e correvo. Non sapevo come avevo fatto ad uscire dalla sala bianca e dal salotto verde e dall'anticamera, passando davanti agli invitati che si ritraevano sgomenti davanti a me e davanti ai lacchè che tentavano di agguantarmi per le braccia. So soltanto che improvvisamente mi colpì in viso un'oscurità greve di pioggia e corsi lungo una fila di case e svoltai in un'altra strada mentre il cuore mi saltava in gola e con una specie di istinto animale trovai la via che cercavo. Poi mi trovai su di una via lungo il fiume. Correvo ancora, inciampavo tra la pioggia, scivolavo, riprendevo a correre e arrivai ad un ponte. La Senna, pensai, ora va bene anche questa. E allora presi a camminare adagio sul ponte e mi appoggiai al parapetto e guardavo nell'acqua dove danzavano innumerevoli luci, guizzavano su e giù. Vi era un senso di letizia in tutto questo. Mi sporsi di più. Le luci mi galopparono incontro. La pioggia scrosciava, ero sola come non lo ero mai stata in tutta la mia vita. Pensavo a mamma e a Giulia e se mi avrebbero perdonata quando avessero saputo tutto. Napoleone scriverà probabilmente questa sera stessa a Giuseppe o a sua madre per dar loro la notizia del suo fidanzamento. Questo fu il mio primo pensiero sensato. Mi fece tanto male che non potei sopportarlo. Perciò appoggiai la mano sul parapetto e cercai di sollevarmi per scavalcarlo e sì, in questo momento qualcuno mi afferrò con una mano di ferro alla spalla e mi trascinò indietro. Cercai di svincolarmi da quella mano sconosciuta e gridai: Lasciatemi! Lasciatemi! Ma fui agguantata per ambe le braccia e strappata a forza dal parapetto. Mi dibattei con le gambe per difendermi, ma sebbene raccogliessi tutte le mie forze per liberarmi, fui trascinata via. Era così buio che neppure potevo vedere chi fosse che mi trascinava così. Udii che singhiozzavo e gemevo dalla disperazione. E udii la voce maschile che vinceva lo scrosciare della pioggia. Calma! Non fate sciocchezze, qui c'è la mia carrozza! Sul lungo fiume c'era una carrozza ferma. Io continuavo a difendermi, disperata, ma lo sconosciuto era assai più forte di me e mi spinse dentro. Poi si sedette accanto a me e gridò al cocchiere: Andate! Andate dove volete, ma andate! Io mi ritrassi più che potei dallo sconosciuto. Ad un tratto mi accorsi che per l'umidità e l'agitazione mi battevano i denti e che dai capelli mi scorrevano dei rivoletti sulle guance. Una mano mi si avvicinò e cercò le mie dita, una mano grossa e calda. Singhiozzai: Lasciatemi andare, lasciatemi scendere! E intanto mi aggrappavo a quella mano estranea perché mi sentivo tanto infelice. Eppure voi stessa mi avete pregato di accompagnarvi, disse una voce nel buio della carrozza. Non ve ne rammentate già più, Mademoiselle Désirée? Respinsi allora la sua mano e dissi: Ma io adesso Voglio essere sola. Oh no, voi mi avete pregato di accompagnarvi da Madame Tallien e adesso resteremo insieme finché non vi avrò ricondotta a casa. La sua voce era assai calma e, per la verità, molto gradevole. Oh, siete voi quel generale Bernadotte? Domandai. E allora tutto mi si ripresentò netto alla memoria e urlai: lasciatemi in pace allora, io non posso soffrire i generali. I generali sono senza cuore. Beh, ecco, ci sono generali e generali, disse lui ridendo. Poi udii che muoveva qualche cosa nel buio e sentii mettermi intorno alle spalle un mantello. Bagnerò tutto il vostro mantello, dissi, prima di tutto perché sono inzuppata dalla pioggia e poi perché devo piangere disperatamente. Non fa nulla, rispose. Ci sono preparato, avvolgetevi pure ben stretta nel mio mantello. Come una vampa si agitò in me un ricordo, il ricordo di un altro mantello da generale in un'altra notte di pioggia. Quella volta Napoleone aveva chiesto la mia mano. La carrozza rotolava via, sempre. Una volta il cocchiere si fermò e domandò qualche cosa, ma il generale sconosciuto gli gridò: «Andate avanti, non importa dove andiate». E così andammo, e andammo, mentre io singhiozzavo in quel mantello forestiero. «Che caso che siate proprio passato su quel ponte!» dissi io ad un certo punto, e lui rispose: «Non è stato affatto un caso. Mi sono sentito responsabile di voi perché vi avevo condotta in quella società e quando lasciaste improvvisamente la sala vi sono corso dietro. Ma correvate tanto che ho preferito prendere una vettura di piazza e venirvi dietro con quella. D'altra parte volevo lasciarvi sola il più possibile». «E perché? Poi siete stato così cattivo e non mi avete lasciata sola». «Non potevo lasciarvi di più», disse con calma e posò il braccio intorno alle mie spalle. Ero stanchissima. E tutto mi era ormai indifferente. Mi sentivo così abbattuta. Avrei voluto continuare ad andare sempre avanti così, in quella carrozza, pensavo, e non dover mai più scendere, non veder più nulla e nessuno, e non udire, e non parlare più, e andare sempre, andare sempre. Posai il capo sulla sua spalla e lui mi attrasse a sé più vicina. Cercavo intanto di ricordarmi quale fosse il suo aspetto. Ma la sua faccia si confondeva con le tante altre facce che avevo vedute. «Perdonatemi», mormorai, «della brutta figura che vi ho fatto fare». «Oh, non me ne importa nulla», disse lui, «me ne dispiace soltanto per voi. Ho fatto apposta a versare lo champagne sul suo abito bianco, lo champagne macchia», confessai. Improvvisamente ripresi a piangere. «È molto più bella di me ed è una gran dama». Egli mi tenne stretta a sé e con la mano libera serrò la mia faccia contro la sua spalla. «Su, su, sfogatevi pure, piangete!» Piansi come non avevo mai pianto in vita mia. Non riuscivo a smettere. Talvolta urlavo piangendo e poi riprendevo a gemere e sempre più la mia faccia si affondava nella stoffa ruvida della sua uniforme. «Inzuppo di lacrime tutta l'imbottitura delle spalle!» singhiozzai. «Sì, l'avete già inzuppata, ma non datevene pensiero. Continuate pure a piangere». Credo che abbiamo viaggiato molte ore per le strade di Parigi, finché non ebbi più lacrime, finché mi fui vuotata di tutto il mio pianto. «Adesso vi condurrò a casa. Dove abitate?» mi domandò. «Oh, fatemi pur scendere qui, so andare a casa da sola», dissi io. E subito ripensai alla Senna. «Allora andiamo ancora avanti così», rispose. Io mi rialzai, la sua spalla era troppo bagnata di pianto, ormai mi ci sentivo a disagio, e mi venne un pensiero. «Conoscete personalmente il generale Bonaparte?» «No, non l'ho visto che una volta di sfuggita nell'anticamera del Ministero della Guerra, non mi è simpatico». «Perché?» «Non posso spiegarvelo, la simpatia e l'antipatia non si possono spiegare. Voi, per esempio, mi siete simpatica». Tacemmo ancora. La carrozza rotolava attraverso la pioggia. Quando passavamo presso un lampione, il selciato riluceva in guizzi di colori diversi. I miei occhi bruciavano, perciò li chiusi e appoggiai il capo all'indietro. «Gli ho creduto, come non avevo mai creduto ancora a nessuno», sentii che dicevo. «Più che a mia madre, più che... no, in una maniera affatto diversa che a mio padre. così non posso comprendere. Ah, molte sono le cose che non potete comprendere, ragazza mia. Dovevamo sposarci tra poche settimane e non mi aveva mai accennato, neppure con una parola, che... Non vi avrebbe mai sposata, ragazzina mia. È fidanzato da un pezzo, con la figlia di un ricco negoziante di sete di Marsiglia. Io sussultai. La sua mano si posò subito ancora calda e protettrice sulle mie dita. Anche questo non lo sapevate, non è vero? Me l'ha detto oggi la Tayen. Il nostro generalino rinuncia ad una grossa dote per sposare l'amica giubilata di Barra. Mi ha detto queste precise parole. Il fratello di Bonaparte ha sposato la sorella di questa fidanzata di Marsiglia, ma adesso una contessa detronizzata con delle buone relazioni a Parigi vale di più che una dote a Marsiglia. Come vedi, piccina, in nessun caso avrebbe sposato te. La sua voce suonava uguale, quasi pacificatrice nel buio. Da principio non capii bene che cosa volesse dire. «Ma di che cosa parlate adesso?» gli domandai e mi passai la sinistra sulla fronte per schiarirmi le idee. La mia destra si aggrappava sempre alla sua grossa mano. Era l'unica cosa calda della mia vita in quel momento. «Mia povera piccina, perdonami se ti faccio tanto male, ma è meglio che tu veda le cose come stanno. So bene che tutto ciò è doloroso, ma peggio di così ormai non può essere. Per questo ho voluto raccontarti quel che ha detto la Tayen. Quella una volta era una ricca fanciulla borghese e adesso è una contessa con delle relazioni eccellenti perché è andata a letto con un membro del direttorio e prima che con lui con due signori del comando militare. Tu invece non hai relazioni e neppure dote, piccina mia. E come fate a saperlo? Bah, lo si vede dal tuo aspetto. Disse lui, tu non sei che una piccola e buona ragazza, tu non sai come si comportino le grandi dame e che cosa succeda nei loro salotti, e non hai neppure denaro, altrimenti avresti fatto scivolare una banconota in mano all'acché della Tayen e lui ti avrebbe lasciata passare. Tu sei una piccina per bene, e fece una pausa, poi improvvisamente dichiarò, ma io ti vorrei sposare. Oh, fatemi scendere, non avete nessun diritto di farvi beffe di me. Esclamai. Mi buttai avanti e picchiai contro il vetro dello sportello. Cocchiere, fermate subito! La carrozza si fermò, ma il generale gridò: andate avanti, via! E la carrozza riprese a rotolare nella notte. Forse non ho saputo esprimermi a dovere, disse nel buio la sua voce esitante. Mi dovete scusare, ma non mi capita mai di conoscere delle ragazze giovani come voi. E Mademoiselle Desirée, davvero io vorrei sposarvi. Il salotto della Tayen è gremito di signore, che sembrano avere un debole per i generali. Io invece non ne ho affatto. Ma non vorrete credere che io possa sposare una cocotte? Perdonate, signorina, voglio dire, una di quelle donne. Ero troppo stanca per rispondergli. E troppo stanca per poter pensare. Non riuscivo a intendere che cosa questo Bernadotte, questa torre d'un uomo, volesse da me. Certo, la mia vita era al suo termine. Nonostante il suo ampio mantello, sentivo freddo e le mie scarpe di raso erano appiccicate, fradice e grevi come il piombo ai miei piedi. Senza la rivoluzione non sarei generale, non sarei neppure ufficiale, signorina. Voi siete ancora giovane, ma forse avrete udito dire che prima della rivoluzione nessun borghese poteva diventare più che capitano. Mio padre era lo scritturale di un avvocato e usciva da una famiglia di artigiani. Siamo gente semplice, signorina. Io mi sono tirato su dalla gavetta. Sono entrato nell'esercito a 15 anni, poi sono stato promosso sottufficiale e a poco adesso sono generale di divisione, signorina. Ma forse sono troppo vecchio? Tu mi crederai, non è vero? Qualunque cosa possa succedere. Così mi ha detto una volta Napoleone. Una gran dama con relazioni importanti e con le palpebre d'argento. Ti capisco, Napoleone. Ma per me è uno schianto. Vi ho rivolto una domanda molto importante, signorina. Perdonatemi, non vi ho udito. Che cosa avete domandato, generale Bernadotte? Se forse sono troppo vecchio. Ma io non so che età abbiate. E poi è indifferente, non è vero? No, no, ha molta importanza. Forse sono troppo vecchio per voi, ho 31 anni. Io sto per compierne 16, dissi io, e sono tanto stanca. Adesso vorrei tornarmene a casa. Naturalmente, scusatemi se sono così poco discreto. Voi abitate? Gli dissi l'indirizzo e gli diede un ordine al cocchiere. Vorrete riflettere sulla mia proposta? Entro 10 giorni devo tornare in Renania. Forse prima d'allora potrete darmi una risposta? Disse esitante e poi risoluto. Mi chiamo Giambattista. Giambattista Bernadotte. Da anni ho risparmiato una parte del mio stipendio. Potrei comprare una casa per voi e per il bambino. Perché bambino? Domandai senza volerlo. Stava diventando sempre più incomprensibile. Per il nostro bambino, naturalmente, disse con fervore e cercò la mia mano. Ma io la ritrassi in fretta, perché io desidero una moglie e un bambino, già da qualche anno, mademoiselle. La mia pazienza traboccò. Smettetela, non sapete neppure chi sono. Oh, vi conosco molto bene, disse lui, e il suo accento era veramente sincero. Io credo di conoscervi meglio di quel che non vi conosca la vostra famiglia. Ho così poco tempo per pensare alla mia vita privata, sono quasi sempre al fronte e perciò non potrei venire per lunghe settimane con voi e fare tutte le altre cose che si sogliono fare prima di chiedere una ragazza in moglie. Io devo decidermi rapidamente e mi sono deciso. Dio mio, faceva sul serio. Voleva impiegare la sua licenza di guerra per prendere moglie, comprare una casa e combinare un bambino. «Generale Bernadotte», gli dissi, «nella vita di ciascuna donna non vi è che un solo grande amore. Come fate a saperlo?» «Già, lo so, perché... come facevo a sapere questo? Sta scritto in tutti i romanzi ed è indiscutibilmente vero», dissi io. In quel momento i freni stridettero. Eravamo giunti alla casa dei Clapin, nella Rue du Bac. Egli aprì lo sportello e mi aiutò a scendere. Sopra il portone era appesa una lanterna. Di nuovo, come avevo fatto davanti alla casa di Madame Tayenne, mi alzai sulla punta dei piedi per vedere la sua faccia. Aveva dei bei denti bianchi e un grosso naso davvero imponente. Gli porsi la chiave che Madame Clapin mi aveva prestato ed egli aperse il portone. «Abitate in una casa aristocratica», notò lui. «Oh, abitiamo nella parte di fondo», mormorai. «E adesso buonanotte». «E tante grazie, davvero, di tutto!» Ma lui non si muoveva. «Tornate in carrozza!» gli dissi. «Vi bagnate tutto!» «Potete stare tranquillo, resterò in casa!» «Brava!» disse lui contento. «E quando potrò venire a prendere la risposta?» Io scossi il capo. «Nella vita di ciascuna donna!» ricominciavo. Ma egli levò la mano con un gesto che intendeva contraddirmi. Allora mi interruppi e dissi «Non va!» «Non può andare, signor generale, davvero non va, non già perché io sia troppo giovane per voi, ma lo vedete bene, sono troppo piccola per voi». Poi richiusi in fretta la porta dietro di me. Quando entrai nella cucina dei Clapin, non mi sentivo più stanca, ero soltanto abbattuta. «Non potrei dormire adesso, non posso proprio dormire. Perciò sono seduta al tavolo della cucina e scrivo». Dopodomani questo Bernadotte verrà qui a cercare di me, ma io non ci sarò più, certamente. Dove sarò dopodomani? Ancora non so.